Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci qui per il consueto appuntamento insieme all'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori. Con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te oggi tocchiamo l'argomento acqua. Se ne è parlato già in questi ultimi giorni, perché pare proprio che il consumo dell'acqua vada a pesare molto sulle tasche degli italiani. Eh sì, purtroppo bisogna dire che l'acqua del rubinetto sta diventando sempre più cara, tant'è che sull'ultimo di statistiche che sono state diffuse dall'ONU il 22 marzo sulla giornata mondiale dell'acqua, è emerso come per esempio in Italia dal 2008 ad oggi c'è stata una crescita sostenuta del 74%, passando da un consumo dedicato un po' a quello che parliamo di aumenti, da un consumo di circa 12,16 euro a un 21,18 euro. Chiaramente parliamo di cifre dedicate all'acqua come consumo di metro cubo di prodotto, scorporate da quelle che sono tutte le tasse, i costi e le spese di spacciamento, che certamente ormai i nostri ascoltatori conoscono e che sanno che sono molto più care e che rivalutano sensibilmente la bolletta. Ecco, quindi consumiamo forse meno acqua di una volta, io immagino, perché forse c'è un po' più di attenzione da parte delle famiglie nel aprire i rubinetti. Insomma, già i bambini all'asilo si insegna come lavarsi i denti, quindi spazzolarli, aprire l'acqua, sciacquare, richiudere l'acqua e via dicendo, però di fatto qui l'acqua costa di più. Forse c'è anche il problema, mi viene da pensare, delle grandi perdite di acqua nei nostri acquedotti, che ormai sono non vecchi ma di più? Sì, certo, però noi in questo caso parliamo solo di aumenti, quindi su quello che è stato un calcolo medio di 245.457 milioni di metri cubi d'acqua, calcoliamo quello che l'andamento del prezzo dell'acqua ha subito negli ultimi anni, e chiaramente arrivare a dichiarare un aumento del 74% c'è veramente poco da gioire, a tal punto che addirittura in contrasto con questi aumenti è emerso come normalmente le famiglie spendono 11,42 euro d'acqua minerale comprata al supermercato, quindi gli aumenti sono sensibilmente maggiori rispetto a quello che è il costo che le famiglie invece spendono per comprarla in negozio. Quindi certamente due dati che fanno capire come oggi quello che un po' è una tendenza consolidata di dire che l'acqua del rubinetto costa meno, chiaramente costa meno nella quantità dedicata agli usi domestici, però su quella dedicata all'utilizzo in casa gli aumenti sono stati veramente incredibili e certamente aumenti che incidono sensibilmente, perché poi parliamo di valori assoluti in termini di bolletta, e sappiamo che le bollette non è una sola, quindi se parliamo di aumenti di circa 21 euro dobbiamo moltiplicarli almeno per 3 o per 4 a seconda del gestore che abbiamo, e insomma vengono fuori cifre veramente non trascurabili. Certo, quindi beviamo meno acqua minerale e quindi probabilmente più acqua del rubinetto, ma alla fine, diciamo, se qualcuno ha detto vabbè, per risparmiare quest'anno iniziamo a bere l'acqua del rubinetto, ma comunque alla fine della fiera paghiamo di più di una volta, no? Questo è il concetto. Certamente parliamo di più di una volta, ma molto di più, e parliamo anche di un bene che è rimasto pubblico e che rispetto a quello che è stato anche dei tentativi di governo di privatizzare questo servizio, comunque certamente anche sotto il controllo dello Stato ha subito degli aumenti incredibili. E l'unica cosa che ci può consolare di questa indagine è un po' il grado, il giudizio che le persone hanno manifestato di soddisfazione per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità che insomma questo quest'acqua ha nei rubinetti, per cui, per carità, cioè, ci sono stati anche dei dati positivi, ma non certamente dati che hanno alleggerito le nostre tasche, ma le hanno sensibilmente appesantite. E secondo noi oggi mancano veramente dei controlli da parte delle autorità su questo servizio di acqua che insomma arrivano nei rubinetti delle case, perché sinceramente mi pare che c'è un vuoto assoluto e questi aumenti non si giustificano a fronte di quello che è un servizio che, vabbè, anche se un po' migliorato i giudizi, ma non è sostanzialmente che sia migliorato nella qualità rispetto a qualche anno fa. Ultimamente l'acqua ci fa dannare, penso a quando piove, che succede che molti hanno a che fare con l'acqua negli scantinati piuttosto che, e poi anche quando ci arriva fuori dai rubinetti, insomma sono dolori, è un bel problema. E a livello anche di impianti di depurazione dell'acqua, per esempio? Sì, anche qui gli impianti di depurazione sono migliorati, certamente sono migliorati anche i costi, sono migliorati anche un po' quelli che sono i sistemi di distribuzione che sono più avanzati rispetto a quelli di qualche anno fa, però certamente anche qui sono aumentati i costi. Ricordiamoci che sulle bollette dell'acqua non abbiamo solo il costo del metro cubo, ma abbiamo tutta una serie di costi, dalle addizionali comunali, regionali, all'IVA, allo scolo degli acquedotti, dei canali. Ci inventano e si inventano di tutto, però certamente, parlando appunto di valore, un aumento del 75% del 2008 non è giustificabile da nessuna parte. Io penso che anche l'acquedotto sta diventando tra quelle bollette che ormai sulla casa incidono sempre in maniera più pesante, insieme a quella dei rifiuti e quelle che insomma negli ultimi anni siamo stati abituati a pagare, da Lice all'IMU, alla TASI, e chissà cosa ci riserverà il prossimo futuro. Ecco, una cosa che per esempio chi abita in una singola abitazione di proprietà potrebbe fare è per esempio raccogliere l'acqua piovana per l'innaffiatura del giardino e cose di questo genere. Questa potrebbe essere anche una buona cosa per riutilizzare e non sprecare, no? Sì, anche qui è un discorso molto complesso, perché l'acqua piovana, quella che normalmente cade nei primi minuti, si dovrebbe cercare di eliminarla e utilizzarla quella che è dopo i 10 minuti di pioggia, in quanto dicono che la prima rispetto a quella dopo ha dei gradi di impurità diversi. Certamente ci sono molte località del sud dove in carenza di acqua le case e le abitazioni sono organizzate con delle vasche di raccolta che vengono distribuite poi nei campi, nelle piantagioni, e certamente l'idea tua sarebbe un'ottima idea, ma mancano proprio tutte le strutture per poter organizzare le abitazioni e poter rivolgere a questa raccolta dell'acqua. Però certo, riteniamo anche che l'acqua, essendo un bene fondamentale e prioritaria nella nostra vita, dovrebbe un attimino essere un po' più controllata in termini di costi, perché ripeto, ci sono città dove gli aumenti poi sono oscillati anche in maniera molto più elevata rispetto al 74% che è una media nazionale, perché abbiamo per esempio la Toscana che è aumentata quasi del 100%, certo. Poi abbiamo altre città dove insomma costa un po' meno, ma sicuramente è troppo ancora. Ecco, quindi calmierare i prezzi dell'acqua e del pane dovrebbe essere insomma una delle regole principali in una società civile. Va bene, ringraziamo quindi per questa chiacchierata il presidente dell'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori, Carlo Garofolini. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il vostro sito. Con te l'appuntamento è fra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.